America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, vorrei cominciare dedicando la copertina di questa settimana a Antonin Scalia, Nino Scalia, grandissimo giudice della Corte Suprema americano, il primo italo-americano ad essere nominato alla Corte Suprema da Ronald Reagan, ormai nel lontano 1986, ed era un uomo straordinario. Io ho avuto l'occasione di conoscerlo, di incontrarlo in varie occasioni negli anni, ed era un uomo inimitabile, arguto, intelligente, provocatorio, in grado di sorprendere sempre, devo dire, con la sua originalità. E questa sua morte improvvisa, era andato a una battuta di caccia con degli amici in Texas e lo hanno trovato morto nel letto, ha avuto evidentemente un attacco cardiaco. Vi dicevo, questa notizia della sua morte ha portato da una parte il ricordo dell'uomo, di quest'uomo straordinario, ma dall'altra ha lasciato un senso di vuoto in Corte Suprema, anche perché si è aperto un dibattito serrato, si è aperta una battaglia politica sulla sua successione, che si farà durissima in parallelo all'indurirsi della campagna elettorale. Intanto i sei candidati repubblicani che si sono confrontati nel dibattito di sabato sera hanno tutti detto che Barack Obama non dovrebbe nominare un nuovo giudice fino a quando non ci saranno i risultati delle presidenziali. Mitch McConnell, il capo della maggioranza repubblicana in Senato, anche lui ha avvertito la Casa Bianca, deve aspettare il risultato elettorale di novembre prima di procedere con una nuova nomina, altrimenti sarà bloccata in Senato. E Barack Obama è intervenuto, ha elogiato la grande statura, la figura di Nino Scalia, e però anche lui è intervenuto nel dibattito e invece ha detto che eserciterà i suoi diritti costituzionali e nominerà al più presto un sostituto per il seggio vacante. Insomma, si apre una situazione piuttosto complessa. Perché? Beh, perché Barack Obama ha la possibilità di sostituire un conservatore come Nino Scalia con un liberal, e quindi altera i rapporti di voto della Corte Suprema, che oggi erano a favore dei conservatori con 5 giudici di nomina repubblicana, 4 di nomina democratica. Ecco, il passaggio sarebbe epocale, perché ci sarebbero 5 giudici di nomina democratica e 4 di nomina repubblicana, e sappiamo quanto importante è la Corte Suprema per decisioni chiave del paese. Non c'è dubbio che Obama, almeno questo è quello che penso, nominerà un giudice a tempo debito, del resto lui stesso l'ha detto, dice: avremo tutto il tempo per condurre una seria e giusta audizione prima di approvare il candidato che io proporrò. Però, come vi dicevo, il Senato è in mano ai repubblicani, McConnell ha le leve procedurali per bloccare la nomina anche per mesi. E dunque questo aggiunge un elemento di rottura in una campagna elettorale che è già imprevedibile e, devo dire, molto inusuale per quello che vediamo e per quello che abbiamo visto nel dibattito elettorale dell'altra sera fra i repubblicani. Sentiamo. While Donald Trump was building a reality TV show, my brother was building a security apparatus to keep us safe, and I'm proud of what he did. Ecco, avete sentito un audio dello scontro fra Donald Trump e Jeb Bush. Qui Jeb Bush si sta giocando la sua ultima carta, dovrà fare molto bene nella Carolina del Sud. Suo fratello George W. Bush, molto amato, devo dire, qui in Carolina del Sud, verrà a fare comizio per lui, verrà anche sua madre. Insomma, si sta davvero giocando il tutto e per tutto. Donald Trump continua ad attaccarlo, però Jeb Bush questa volta ha risposto in modo deciso, ha detto: io sono stufo di sentire i tuoi attacchi contro la mia famiglia, tu sei un uomo che non sa nulla, non sei in grado di essere un vero leader, sei soltanto uno che, mentre mio fratello stava costruendo la difesa di questo paese, si stava preoccupando di fare un reality show. Ecco, questo attacco diretto all'impreparazione di Donald Trump, alla superficialità, che devo dire in effetti è parecchio preoccupante, ha, come dire, entusiasmato il pubblico. Vedremo se Jeb Bush riuscirà a fare bene qui in South Carolina. Nei sondaggi sta andando abbastanza bene, ma Donald Trump è ancora in ampio vantaggio. Le elezioni saranno sabato prossimo, ci saranno giorni infuocati di campagna elettorale, di questa straordinaria campagna elettorale che ha aggiunto un altro dramma, la perdita di quest'uomo straordinario di cui vi ho parlato, Nino Scalia, e dell'incognita su quel che succederà per la sua successione. Ci sarebbero meglio altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ci stiamo avvicinando ai Grammy Awards, le migliori canzoni dell'anno. Stasera ci sarà la grande celebration da Los Angeles dei Grammy Awards. Vi lascio intanto con una nuovissima canzone che è stata rilasciata proprio nel fine settimana di Kanye West, Ultra Light Beam, il primo singolo del suo ultimo album, The Life of Pablo. We on our ultra light beam. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!